impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Sandro Boscaini. In 250 anni Amarone Masi dalle Tre Venezie al mondo. Di Anna Marino. Esistono i vini regionali perché siamo tante Italie, e allora il vino italiano cos'è? È un bouquet dove ci sono tanti fiori di differenti profumi, differenti colori, eccetera. Insieme fanno un gran bouquet, però il singolo è già in se stesso una identità bella. Il successo Nord-Est, che è stato un grande successo nonostante le crisi attuali, ma è dovuto a questo, la capacità di saper fare e far sapere. Il territorio è il punto di partenza per la crescita delle imprese, le radici fondamentali per viaggiare nel mondo, secondo Sandro Boscaini, presidente e amministratore delegato di Masi Agricola. Fondata nel 1772 sul territorio veneto a Gargano di Valpolicella, in provincia di Verona. L'azienda appartiene da 7 generazioni alla famiglia Boscaini. Prima società produttrice di vino quotata in borsa italiana da giugno 2015. Masi è presente in quasi 100 paesi con una quota export intorno al 90% del fatturato. Nel bilancio del 2016 i ricavi netti sono stati pari a 63,9 milioni di euro, con una crescita del 5%. Il gruppo è profondamente radicato nei valori e nelle tradizioni delle Venezie e allo stesso tempo ha una forte vocazione internazionale, che ricorda, spiega Sandro Boscaini, lo spirito dei veneziani, popolo di mercanti e viaggiatori, che hanno da sempre esportato cultura e commercio nel mondo. Venezia ovviamente è una città che si muove, è una città sulle barche, è una città sulle isole, certo, ma è una città che si muove attraverso le barche vogliono dire contatto con le altre sponde del Mediterraneo, ma anche poi contatto con il Medio, l'Estremo Oriente, l'India, la Cina addirittura. Marco Polo ha segnato una traccia, ha segnato una strada, e il Veneto si è mantenuto così. Questo stile che era tipico di Venezia, del mare che ha conquistato e che ha fatto un grande emporio per più di mille anni, è rimasto nell'anima anche del produttore agricolo e del produttore del vino. La storia di Masi è la storia di una famiglia e dei suoi vigneti a Verona, in Veneto. Il nome stesso ha un significato particolare perché è legato al territorio. Deriva dal Vaio dei Masi, la piccola valle acquisita alla fine del XVIII secolo dalla famiglia Boscaini, tuttora proprietaria. Così Sandro Boscaini spiega come si è poi espansa nel territorio. Il nome Masi, che molti pensano il nome di famiglia, non è un nome di famiglia, è il nome di una località. Il vero nome è Vaio di Masi, che vuol dire piccola valle in dialetto veronese e veneto, piccola valle Masi, perché in effetti nel cuore della Valpolicella c'è questa piccola valle che confluisce nella valle di Marano, una delle tre valli della Valpolicella classica. Questa proprietà è capitata in mano ai Boscaini per matrimonio, sposando una Bonaldi, figlia unica di proprietari terrieri, e questo è un grande patrimonio che ci è stato lasciato e che noi curiamo producendo in questa area vocatissima per gli amaroni e per i grandi vini rossi. Ma poi ci sono altri momenti nella storia, quando mio nonno nel 1880, per esempio, capendo che era tempo non solo di produrre ma anche di commercializzare, di dare servizi, di fare logistica, ha mantenuto la sua sede originaria nel Vaio di Masi, eccetera, ma ha comprato due ulteriori proprietà abbastanza ampie, sempre nella Valpolicella classica, nella valle di Marano, e ancora oggi abbiamo una delle nostre sedi, la sede produttiva, quella dove si vinifica, dove si ancora si imbottiglia il vino. Perché? Perché ha capito che andare più in valle, ma lontano pochi chilometri, vicino al trenino che c'era allora, Verona-Garda, si iniziava una storia nuova. Masi dal 1973 collabora in Valpolicella con i conti Serego Alighieri, discendenti diretti del poeta Dante. E le aziende insieme sono la memoria del territorio. Noi nella nostra azienda, ma ancor più in un'azienda che abbiamo nel nostro gruppo, l'azienda Serego Alighieri, quella che dei discendenti diretti di Dante, il quale, facendo un inciso così di tipo culturale, sappiamo tutti, è dovuto scappare, fuggire da Firenze perché è condannato a morte, e nel suo peregrinare è stato in tempi diversi, ma per 7 anni a Verona, e a Verona ha lasciato la sua discendenza, anche se è morto a Ravenna, e il figlio difatti ha comperato, non è storicamente provato, ma ha comperato proprietà, vigne e palazzo, sembra dove il padre abbia vissuto. Comunque, da allora in poi la discendenza di Dante è sempre rimasta lì ed è un pozzo di informazioni sull'area, perché era una discendenza importante, con gli Alighieri sono incrociati con i Serego, una nobile famiglia locale veneta sin dal tempo del Sacro Romano Impero. Addirittura Palladio ha lavorato per loro sia nel fare ville che nel fare la fossa Sarega, cioè un sistema idrico per l'irrigazione che è unica e di cui Palladio appunto ha disegnato tutto il sistema idrico. Ecco, in questa famiglia ci sono veramente le memorie storiche di tutto quello che è successo nei secoli, a quasi 800 anni di storia. Più recentemente Masi si è impegnata anche in Trentino con i conti Bossi Fedrigotti, che da secoli si dedicano alla vitivinicoltura con amore e professionalità. Secondo Sandro Boscaini, questa rete tra famiglie storiche recupera la tradizione agricola e vitivinicola della nobiltà triveneta. Da lì abbiamo preso un modello, abbiamo detto: se noi dobbiamo andare in zone che sono culturalmente vicine a noi, perché parliamo lo stesso dialetto, abbiamo lo stesso sentire, il Trentino e il Friuli, come il Veneto, hanno fatto parte della Repubblica Veneta. Diciamo, noi siamo impiantati, le nostre radici sono nel veronese, pertanto nel Veneto. Quando andiamo fuori di queste, perché invece di comprare solo un terreno non avviciniamo chi possiede la radice vera, la storia vera del territorio? È una cosa non facile, ma è una cosa, devo dire, esaltante, cioè creare questa collana delle nobili famiglie, delle nobili fattorie. Importante fin dalla storia antica è anche l'arte di conservare il vino e le tecniche storiche che si sono succedute. L'appassimento delle uve è il metodo tradizionale usato nelle Venezie per concentrare aromi e gusti nel vino. Le uve riposano nei mesi invernali su graticci di bambù prima della vinificazione. Questa tecnica antichissima è stata impiegata negli ultimi 50 anni per creare vini moderni da uve appassite, primo tra tutti l'Amarone. Il nostro territorio ha una consuetudine col vino che va dal tempo dei Romani, o anche prima chiaramente, ma era noto nel nostro territorio una produzione e un vino che i Romani consideravano secondo solo dopo il Falerno, il Reticum. Ci sono tracce in Marziale, in Virgilio, in Columella, eccetera, nelle colline che vanno, diciamo, le Prealpi, specificamente nella zona vicino al Lago di Garda, le colline di Verona. Questo prodotto Reticum era un prodotto da uve appassite attraverso l'appassimento, perché allora c'era un problema fondamentale: come si conserva un vino mancando di tecnologia da un anno all'altro? I sistemi erano molto pochi, o si addizionava miele per poterlo mantenere appunto un po' marmellatoso, si addizionava acqua per poterlo bere, figuriamoci come bevevano allora, oppure si faceva una grossa concentrazione degli zuccheri dell'uva in modo tale di creare appunto un vino alto di zuccheri, alto di alcol, che potesse appunto sopravvivere. C'era un terzo sistema che ancora si usa minimamente in Grecia, quello di aggiungere la resina, addirittura anche questo con lo stesso scopo. E c'è stato un cambiamento forte nel settore e nei gusti del vino che ha segnato la vita aziendale, come spiega Sandro Boscaini. C'è stato un passaggio drammatico, eccezionale, da un vino inteso come pura bevanda per la dieta quotidiana dell'italiano a un vino più sofisticato, un vino come oggi, che è più edonismo che non vero nutrimento. E io qua ricordo, proprio ricordo mio personale, quando ero a Milano come studente, seconda parte degli anni 60, no, e si andava con gli amici a bere un bicchiere di vino, mangiare un panino, eccetera, in un Trani vicino a Piazza degli Affari, che oggi non c'è più purtroppo, un bellissimo posto come erano allora, questi trani milanesi, e il vino era scolpito perché era messo sulla parete con tre fondi di Botticella e c'era vin char, vin scur, vin gros. Questa era l'enologia di allora. Per vino chiaro si intendeva il vino, il Bardolino, il Valpolicella, il Merlot del Veneto, vini che sono di medio colore. Per vin scur, i vini più pesanti, più strutturati, specialmente nel colore, che vengono dal Piemonte, il Barbera, Fresa, e poi anche il Barolo, il Nebbiolo, eccetera. Per vin gros sono i vini veramente del sud, che sono vini di alto grado alcolico, di alto contenuto, eccetera, vini pugliesi, vini siciliani. Per fare fronte al salto industriale, nel tempo l'azienda ha scelto di istituire un comitato tecnico, un team specializzato in marketing, viticoltura, enologia, impegnato a preservare e attualizzare l'eredità viticola ed enologica delle Venezie, nato proprio nel 1978 con l'ingresso di Sandro Boscaini. Cominciamo a dire dal vin char, vin scur, vin gros, dove siamo andati a finire. Siamo andati a finire al vino di territorio. Noi produciamo usando le uve autoctone, quasi solo quelle, o addirittura solo quelle, del Veneto e del Triveneto. In Verona, Corvina, Rondinella e Molinara, queste tre grazie incredibili che non si sa da quanti secoli dimorano lì e che hanno un'interazione fantastica con il clima, il microclima e il sistema di produzione, che è il secondo punto, cioè fare vini attraverso l'appassimento delle uve. E noi ci siamo specializzati, era ovvio che c'era da studiare molte cose e allora deve essere un teamwork che li produce. L'export è importante non solo nei numeri, perché Masi è presente in quasi 100 paesi, ma anche nella storia dell'azienda che, come racconta Sandro Boscaini, è sempre stata pioniera nella ricerca di nuovi mercati come la Cina. Parlo ormai di 25 anni fa, quando la Cina si è aperta al mondo, io forse sono stato uno dei primi, o forse il primo italiano, a trovare un importatore. Come ho fatto? Sapendo che il Kempinski Hotel a Pechino aveva aperto un ristorante che si chiama Gondola, e a gestirlo c'erano due italiani, uno chef e un maître di sala, e due anzi veneti, sono andato in contatto con loro. Ho fatto un accordo con loro, io manderei giù una gondola vera. Ricordo che sono andato a Venezia a comprare questa gondola e ho mandato queste 450 casse, prima esportate, con questa gondola. È stato un successo. L'ultimo boom per l'export dell'Amarone è stato oltreoceano, in America. È un boom tipicamente veneto, o prevalentemente veneto, il boom del Prosecco e il boom dell'Amarone. Boom dell'Amarone che pertanto è stato covato anche a lungo, nel senso che l'Amarone non è che lo conoscono da ieri negli Stati Uniti. L'originalità di questo vino, la vicinanza di questo vino con quello che per l'americano è l'idea di vino, cioè vino potente, molto alcolico, pieno di profumi e di aromi immediati, abbastanza forti, perché l'Amarone è un vino barocco, è un vino che si fa conoscere, non tutti magari lo amano, i raffinatissimi sniffing dei vini del mondo, però è un vino che parla il nostro dialetto, ma si fa capire. E la saggezza del territorio, tradotta in dialetto, è il testimone, secondo Sandro Boscaini, che ha portato l'Amarone nel mondo con una frase. Magna come te parle, mangia o bevi come sai parlare, cioè col tuo linguaggio. Pertanto dico che, se vogliamo tradurlo in termini più generali, cerca di essere autentico in quello che fai. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.